strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori. Il coronavirus colpisce anche le auto, sono diversi i marchi costretti a fare i conti con l'epidemia che sta isolando la Cina dal resto del mondo, arrivando addirittura a interrompere le produzioni. È il caso di Hyundai, che ha bloccato 7 impianti in Corea del Sud, di Kia e Renault. Brusco stop della produzione anche per il gruppo Volkswagen, il 40% dei suoi modelli viene infatti realizzato in Cina e tensioni anche nei siti cinesi di Ford e Nissan, PSA, BMW e Toyota. Non se la passano bene nemmeno i brand che producono in Europa, come ad esempio FCA, che a causa dell'epidemia lamenta un ritardo di forniture dalla Cina. E torniamo in Italia, dove ci sono, pensate, 70,7 veicoli ogni 100 abitanti. Racconta questo il rapporto Pendolaria 2019 di Legambiente, che ha messo in evidenza come nel nostro paese, soprattutto nelle aree metropolitane, il tasso di auto di proprietà sia tra i più alti del mondo. Un problema anche di alternative. Se il Regno Unito, la Germania e la Spagna possono contare per ogni grande città su oltre 600 km di linee metropolitane, l'Italia si ferma a 246 chilometri complessivi, considerando addirittura tutti i 7 principali centri urbani. L'ecosostenibilità delle auto non passa solo attraverso nuove motorizzazioni. Le versioni mild hybrid di Fiat 500 e Panda puntano anche su interni, sedili in particolare, realizzati con un rivestimento in plastica riciclata. Il filato a copertura dei sedili è infatti composto per il 10% da plastiche recuperate in mare e per il 90% da rifiuti in plastica raccolti a terra. Un prodotto sviluppato da Sequel, un'organizzazione spagnola impegnata nel riciclo, che collabora da qualche anno con grandi realtà aziendali. Londra e Los Angeles insieme per contrastare il caos trasporti nelle principali città del mondo. La città statunitense e Transport for London hanno annunciato una collaborazione per identificare i problemi di trasporto comuni e sviluppare soluzioni che possano valere su larga scala. Attraverso il progetto le industrie private avranno la possibilità di partecipare a scambi di start-up per rendere la circolazione più sicura, pulita ed efficiente. E cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di infrastrutture, parliamo di mobilità elettrica. È stato rinnovato l'accordo di partnership fra Enel X e Smart per la fornitura di box station domestiche, e questo ci dà anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione sulla infrastrutturazione elettrica nel nostro paese, nelle nostre città, un punto che facciamo in compagnia di Federico Caleno, che è il responsabile della mobilità elettrica di Enel X Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, Enel X ha stipulato una serie di accordi con gran parte delle case costruttrici per la fornitura di questi box domestici, l'ultimo, quello che citavamo, con Smart, che forse, Caleno, essendo un'autopiccola, è quella che dà meno problemi in questo senso, cioè ci si può collegare praticamente alla tradizionale 220 di casa. Allora, in effetti Smart, per quanto piccola, però ha le possibilità di essere caricata con diversi livelli di potenza, quindi è una partnership che abbiamo con Smart fin dall'inizio. Possiamo dire che il progetto mobilità elettrica in Enel è nato grazie all'accordo con Smart nel 2008, tutto nato da quell'accordo, e poi da lì è nata lo sviluppo della nostra infrastruttura. La macchina sicuramente in relazione all'utilizzo è, diciamo, predisposta a fare un numero limitato di chilometri in ambito urbano, e quindi va bene una ricarica domestica a 3 kW, però potenzialmente è in grado di essere caricate per potenze maggiori e quindi fare anche viaggi un po' più lunghi. Certo. Ecco, quali sono gli effetti pratici di questo accordo e anche degli altri, di cui magari ci parlerà fra un po', sui consumatori? Che vantaggio ha un consumatore da questo tipo di accordo? Diciamo, il nostro obiettivo è quello di eliminare qualsiasi barriera, semplificando la vita dei consumatori. Noi stiamo lavorando con tutte le principali case costruttrici veicoli elettrici che lanciano veicoli elettrici nel mercato italiano per facilitare da un lato la procedura di installazione, quindi tutta la fase di verifica della possibilità di installare un impianto a casa, supportarli nella decisione in merito per esempio all'aumento di potenza, dargli consigli sul tipo di box da utilizzare e eventualmente anche offrirgli una soluzione che non gli, che gli consenta, oltre alla ricarica domestica, anche di utilizzare infrastrutture pubbliche. Quindi diciamo l'obiettivo principale è quello di semplificare la vita al cliente finale. Tra l'altro vogliamo ricordare anche una notizia molto carina che abbiamo dato qualche settimana fa. Enel X sta anche lavorando per far sì che dalle colonnine di ricarica, quelle pubbliche, si possano ricaricare le carrozzine elettriche, un progetto che è stato lanciato nel corso dell'ultimo Consumer Electronics Show di Las Vegas qualche settimana fa. Ci piace ricordare anche questo impegno sociale. Torniamo invece a queste colonnine pubbliche, ma nel loro utilizzo tradizionale, che è quello legato appunto alle ricariche delle automobili. Noi ci aspettiamo un incremento notevole, sensibile, del numero di veicoli elettrici in circolazione in Italia nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Come si sta preparando Enel X a questa vera e propria rivoluzione? Diciamo, per facilitare questo aumento di veicoli elettrici nel mercato, abbiamo lanciato nel novembre del 2017 il piano infrastrutturale, perché per togliere qualsiasi dubbio al cliente che si trova a ipotizzare l'acquisto di un veicolo elettrico, ma poi deve affrontare il problema di caricarlo. Sicuramente chi ha la possibilità di caricare a casa e in ufficio ha un'agevolazione in più, perché appunto ha un posto sicuro dove caricare. Però chi deve fare uso di un'infrastruttura pubblica ha la necessità di vedere infrastrutture presenti sul territorio nazionale. Per questo, indipendentemente dal numero di veicoli che erano presenti nel mercato nel novembre del 2017, abbiamo deciso di lanciare questo investimento, questo piano infrastrutturale, e grazie a questo programma oggi abbiamo operative in Italia 8.500 punti di ricarica, che ci pone all'avanguardia nel rapporto punti di ricarica per veicoli elettrici presenti sul mercato. Ecco, a proposito di questi veicoli, lo ascoltiamo anche dalle interviste che si susseguono all'interno della nostra trasmissione. Soprattutto quest'anno verranno lanciati numerosi modelli di potenza davvero elevata. Non stiamo più parlando della piccola auto cittadina, della Smart per intenderci, ma di SUV e veicoli che devono macinare centinaia se non migliaia di chilometri. Come vi state attrezzando per le strutture di ricarica, non all'interno delle aree urbane, ma nelle aree extraurbane, sulle reti statali o addirittura su quelle autostradali? Sulla la gamma di prodotti che Enel X ha a disposizione per infrastrutture del paese è ampia, nel senso, oltre le colonnine che consentono una ricarica dell'arco di tempo dall'ora alle due ore, che è il modello prevalente che stiamo utilizzando per l'ambito urbano, abbiamo delle infrastrutture di ricarica a potenza maggiore, superiore a 50 kW, che stiamo installando prevalentemente nelle aree extraurbane per abilitare l'uscita dall'ambito urbano dei veicoli elettrici. Abbiamo già installato più di 250 infrastrutture di ricarica di potenza così elevata, superiore a 50 kW, e stiamo anche in parallelo lanciando l'infrastrutturazione con quelli che si chiamano gli high power chargers, sono vere e proprie aree di servizio con diversi punti di ricarica da 4 a 8, con potenze che arrivano a 350 kW, che vanno proprio incontro allo sviluppo del mercato di quei veicoli in cui faceva riferimento, che appunto hanno autonomie molto più ampie e potenze di ricarica che arrivano anche a 350 kW. Certo. Bene, e allora noi seguiremo ovviamente con grande attenzione anche l'evoluzione di questo processo di infrastrutturazione del nostro paese. Per ora salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Federico Caleno, responsabile della mobilità elettrica di Enel X Italia. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Ci risentiamo fra pochi minuti, parleremo dell'ultima arrivata di casa Hyundai, la City Car i10, la nuova versione presentata qualche settimana fa alla stampa italiana. Ne parliamo tra poco, restate con noi. Strade e motori. seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questa parte a Hyundai. È stata lanciata qualche settimana fa la nuova i10, una vettura sicuramente importante per questa casa automobilistica, e noi ne approfittiamo anche per fare un po' il punto della situazione in compagnia del nostro ospite, che è Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera Massimo e buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori. Allora, fra un po' approfondiremo la i10, vi faremo anche ascoltare una scheda su questa nuova vettura, ma prima vorrei fare con lei una battuta su quest'anno, cominciato da qualche settimana, e soprattutto sull'anno appena trascorso. Come è andata per Hyundai e quali sono le aspettative per questo 2020? Direi che è stato un anno di consolidamento, non abbiamo lanciato grandissime novità di prodotto, è stato più un anno in cui abbiamo consolidato la nostra posizione nel mercato, sempre essendo protagonisti del mercato privati. Viceversa, nel 2020 ci aspettiamo un mercato ancora in salute, quindi comunque molto simile nei numeri totali a quelli del 2019, però in questo mercato Hyundai vuole esprimere un qualche cosa di più grazie alle tantissime novità di prodotto che arriveranno un po' in tutti i segmenti, e il punto di partenza per noi è stata proprio la nuova i10, che arriva di gran carriera sul mercato in questi giorni. E allora, a proposito di i10, ascoltiamo questa scheda. È la più giovane del brand coreano, ma vuole pensare in grande. Go Big è infatti il claim che la nuova Hyundai i10 usa per proporsi al mercato italiano con le sue tecnologie rivedute e potenziate. Una city car compact, progettata e costruita in Europa, che si presenta con le caratteristiche tipiche delle sue precedenti versioni. Cofano corto, tetto alto, spazio e luminosità all'abitacolo, con l'aggiunta però di uno slancio più sportivo, dato soprattutto dalle nervature nette sulle fiancate. Comoda dentro, spaziosa e dallo spirito spiccatamente pratico, la Hyundai i10 ha anche un baule tra i più capienti del suo segmento. Il sistema di connettività con funzioni integrate nello schermo touchscreen da 8 pollici e di sicurezza attiva sono particolarmente all'avanguardia, grazie alle tecnologie della famiglia Hyundai Smart Sense e alla piattaforma Connected Car. Disponibile con motorizzazione benzina 1000 mpi da 3 cilindri da 67 cavalli, cambio manuale a 5 marce o cambio manuale automatizzato, offre un'esperienza di guida brillante e adatta all'uso urbano, con un occhio attento anche alle emissioni. Ritorniamo in studio, sempre in compagnia del nostro ospite Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Allora, questa è la nuova vettura presentata qualche settimana fa alla stampa italiana. Quali sono le aspettative su quest'auto? Sono molto grandi, nel senso molto ampie. La i10 è sempre stata per noi di Hyundai una vettura di volume che interessa un larghissimo pubblico, molto importante come mix, pesa più del 20% delle vendite. E noi su questa vettura abbiamo coniato questo slogan Go Big, che sostanzialmente ci porta a disegnare una vettura che pensa in grande. Quindi grandissime aspettative, e direi giustificate un po' dai contenuti che ha questa vettura, principalmente uno spazio il più grande della categoria. Tanta tecnologia di bordo, è l'unica vettura che ha uno schermo da 8 pollici in plancia, e poi tantissima sicurezza con anche la frenata d'emergenza di serie. Quindi crediamo veramente tanti contenuti anche in un'auto estremamente compatta. Ecco, cambia qualcosa anche nel design, con delle nuove scelte e un gusto tra virgolette sportivo? Direi che è imprescindibile anche in questo tipo di vetture per renderla accattivante. Abbiamo cambiato notevolmente il design, la macchina è completamente nuova, e credo che abbiamo trovato un buon bilanciamento tra quello che può essere la versatilità, ma anche creare un qualche cosa che sia veramente, veramente appetibile. Per esempio, una cosa importante è notare il numero di personalizzazione, con anche il tetto bicolor che si può avere in due colorazioni, con più di 20 colori, quindi devo dire una scelta ampia di personalizzazione in cui possono venire fuori molte combinazioni estremamente accattivanti. E poi mi piace dire e ricordare anche l'efficienza di questa vettura, ovviamente in linea con tutte quelle che sono le normative ultime Euro 6, quindi con le più stringenti norme antinquinamento, siamo intorno ai 20 km al litro, quindi insomma comunque una vettura che fa anche molta efficienza. Una vettura realizzata in Europa per il mercato europeo, anche per il mercato italiano, lo diceva lei, protagonista anche delle vendite nelle passate generazioni, e quindi quali sono le prospettive rispetto alle vendite passate? Ma le aspettative, come dicevo prima, sono molto importanti, dettate anche dal fatto che ci sono tantissimi costruttori che nel 2020 abbandoneranno questo segmento delle city car più piccole. Ecco, noi vorremmo invece non solo non abbandonarlo, ma continuare a dare una risposta importante a tutti i clienti che ci hanno seguito nel passato e nel recente passato, e soprattutto offrire una offerta nuova e direi più ancora più accattivante, più completa a tutti coloro che non troveranno più una soluzione dal proprio costruttore, perché semplicemente la macchina non viene più costruita. E crediamo che quindi ci sono dei presupposti per fare molto bene e soprattutto direi per continuare ad essere protagonisti in questa fetta di mercato. Il 2020 sarà sicuramente un anno di transizione importante per il mercato dell'auto, lo abbiamo detto e ribadito più volte nel corso delle nostre trasmissioni. Ci sarà sicuramente un incremento dell'ibrido, la definitiva consacrazione del plug-in, quasi tutte le case stanno lavorando sull'elettrico. Ecco, veniamo alle motorizzazioni di cui sarà dotata questa vettura. La motorizzazione con la quale lanciamo la nuova i10 è il conosciutissimo ormai 1.003 cilindri, 67 cavalli, è un motore benzina, come dicevo prima è un Euro 6, diciamo, sia non solo molto efficiente ma che risponde a tutte le normative di inquinamento, e credo che sia una soluzione disegnata in maniera perfetta per quello che è la mobilità delle nostre città e per le esigenze di mobilità di questa city car. Ovviamente mi fa piacere anche ricordare che ormai in Hyundai abbiamo una gamma elettrificata da il mild hybrid all'elettrico al full hybrid che copre quasi più dell'80% dei nostri veicoli. Ovviamente ci saranno delle novità che arriveranno durante l'anno, ma abbiamo già in gamma una vastissima soluzione di motori che vanno, diciamo, da quelli più efficienti a più basse emissioni fino alle emissioni zero come la Kona elettrica. Ecco, veniamo proprio a questi modelli disponibili sul mercato e a quelle che saranno le novità di questo 2020. Credo che avremo veramente tante notizie da dare al mercato, ci aspettiamo appunto di raggiungere molto rapidamente la quasi completezza dei modelli che sono in una versione elettrificata. Naturalmente la base di partenza è già molto buona, perché mentre molti costruttori parlano ancora di modelli che devono essere introdotti sul mercato, noi già oggi abbiamo tutta la rete pronta per vendere le Kona elettriche, per vendere le Kona ibride, la Ioniq è nella versione elettrica, plug-in e ibrida, quindi ci sono tantissime soluzioni, includendo anche la Tucson Mild Hybrid, quindi tantissime soluzioni di mobilità per le più diverse esigenze, che siano più legate alla città o meno legate alla città, che coprono questa importantissima fetta di mercato che sicuramente nel 2020 vedrà un'ulteriore crescita. Ecco, Crespi, siamo in chiusura, un'ultima battuta: questo è il mercato del 2020, c'è poi da pensare ad un futuro, diciamo, remoto, a quella che sarà l'alimentazione del futuro. Voi state sperimentando qualcosa in proposito, cosa vedremo sulle strade da qui a 20 anni secondo lei? Ma sicuramente la cosa sulla quale noi stiamo investendo e stiamo continuando ad investire è la mobilità di idrogeno, dove ricordo la vettura si rifornisce in cinque minuti, poco meno di 5 minuti, facciamo quasi 700 km con un litro, con diciamo un pieno, e quindi diciamo abbiamo direi perfettamente la rispondenza a quella che è l'esigenza delle nostre città, avere rapidità nel rifornimento, avere certo. Emissioni zero, l'idrogeno emette, abbiamo al tubo di scarico l'emissione di vapore acqueo. Ecco, credo che questo sia un filone fondamentale per continuare a dare delle soluzioni più sostenibili possibili, ma anche più versatili e più convenienti possibili per il cliente. Certo, e noi seguiremo ovviamente l'evoluzione di questa alimentazione all'idrogeno, ne abbiamo parlato spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Come diceva Crespi, è davvero l'uovo di Colombo, sembra essere la soluzione perfetta per la mobilità del futuro. Ovviamente ci sono ancora un po' di difficoltà tecniche e di costi, altrimenti probabilmente l'avremmo già applicata adesso, Crespi, giusto? È corretto, nel senso che soprattutto sulla rete infrastrutturale bisogna fare dei passi importanti, però io credo che sia molto significativo il fatto che per esempio Hyundai non ha un prototipo su questa, già una vettura di serie, quindi una vettura acquistabile. È un passo avanti importante già avere la tecnologia diciamo incarnata in una vettura di serie. Questo credo sia un passo disponibile sul mercato, certo. Perfetto, esatto. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Abbiamo parlato della nuova i10, tra l'altro vi ricordo, per chi volesse invece vederla questa i10, che è possibile farlo collegandosi al sito www.radio24.it nella sezione Strade e Motori, ed in particolare nel podcast relativo a questa puntata che troverete a partire dai prossimi minuti. È possibile vedere le immagini e la scheda video di questa piccola di casa Hyundai. È davvero tutto, Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.